che lo conosco così, dai. Una trentina d'anni. Non è. È grandezzo, non è piccolo, E anche io lo stesso tanto lo conoscevo, lo stesso tanto, ci lavoro 29 anni al Duris, e da quando ci lavoro lo conoscevo. Positivo, positivo. Io lo conosco da prima di essere con mia moglie, io sono sposato dal 79 e lo conosco da prima, si può immaginare. Lo conosco così perché lo conosco per Caccitto e perché nel tempo vendevano ciuline anche, cose così, ecco perché l'hanno messo come soprannome così, credo. Però di solito lo vedevo sempre, vedeva palloncini, o se no andava lì ai pescherici per scaricare, se buscava il pesce e andava a venderselo. Cioè immagina, ti faceva due lavori per avere un guadagno, praticamente prima scaricava, poi doveva vedere anche il pesce. Glielo dava in pesce, come si chiama? Noi gli dava assurdo, ma in pesce glielo dava. Così fa. Ci fanno anche anziani, così aiutare, capito? Alessio Di Manzano, lì sul stesso, quindi lui andava sempre a quell'ora lì, perché verso le 6:30 entra il pescherici e andava a aiutare. Già lo so, io ho visto tante volte, vado io, si sono fatto mattina a prendere sardine e coso, e mi è capitato di vederlo riscaricando un po' di volte. È come Andrea, che non lo conosceva, quello che hanno buttato al centro commerciale, un altro fatto che l'ha ammazzato. E vai. Sì, un ragazzo, mi pare che abbia 21 anni, una cosa del genere, di sorso. L'ha spinto lui. L'hanno arrestato ieri. Arrestato ieri? Cappa, l'hanno fatto vedere a Canale 5. Cappa, no, ieri non l'ho visto proprio, no. Poi sono arrivato di arrestato, non l'ho visto. L'hanno detto anche stamattina a Videolina. Stamattina presto alle 7, se l'ha detto sei già fuori a quell'ora. Alle 7 l'hanno dato al telegiornale. Hanno fatto vedere anche il tipo. I carabinieri portatori l'hanno arrestato. Che apparroccio. Beh ragazzo, io vado su e vedere se c'è qualcosa che bolle in qualche pentola. Io in realtà perché non mangiavo le uova con le cipolle, ne avevo anche in voglia, ma le ho fatte stasera, ci ho messo anche un po' di filante sopra. E me l'ha ribattato con gusto. Già di ieri le ho io le uova con le soda, con le patate e i fagioli, fagiolini, la insalata. Ecco. No, io mangio le uova già da tanto. Perché prima le mangiavo quasi ogni giorno, ero anche esagerato. Adesso sto limitando. Vabbè, speriamo che ti tocchi stasera. Ci sentiamo, buon carico, avanti Falchi. Perché te lo riprende. Giuseppe, lei prendi tu, poi andiamo sul 21, se non ti dispiace. Cappa del positivo, dai, ciao G, e buona carica e buon tutto, dai, ce la risentiamo presto, e niente, buon trabacco per, domani è sabato, cosa sto dicendo, la testa mia oggi, e buon fine settimana, ci sentiamo G, ciao. Cappa, ciao a tutti, ciao. Namo sul canale 21, Gavagava. Bravo. Uno mi sta chiedendo un break, mi vuole entrare. Avanti chi brecca? Non lo so. E il break, avanti. Non c'è più, stava break, poi è sparito. Ciao a tutti, ciao. Quando ci sentiamo mi dovresti dare qualche dritta per quanto riguarda quel pannello che c'è dietro nel cofano. Pannello che c'è nel cofano? Qual è? Quello laterale? No, quello che copre, quello nero che scorre. Ah, lì c'è la roccia di scosta. Sì, lì sotto ho visto che c'è la ruota di scorta e tutte cose, però quello che copre quando chiudi il portellone, no? Che fa in modo che non vedi che cosa hai dentro il bagagliaio, quello lì è che non riesco a capire. Quello lì è solo per coprire, basta, è solo per coprire. Ci sono due, hai visto che ci sono due asole che poi te le devi chiudere. Quello sì, che entra dentro quei due binarietti nella plastica, che poi vanno a fine corsa. Eia. Niente. Quello lì è solo per coprire, non è niente. Lo usano solo per coprire, per non vedersi là il cassetto. Infatti, però quello che non capisco è se il pezzo di dietro, proprio alla fine, no? E che va a incastrare, hai visto c'ha quell'incastro per il motorino del tergicristallo? No, dietro dove? Nello sportellone? Sì, nello sportellone sto parlando. Ah, io pensavo in terra dove c'è la ruota di scorta. No, quelle cose che fa su fietto sopra il portellone. Quello deve essere il motore del tergicristallo. Quello lì è il motore del tergicristallo. Ma quell'affare nero che c'è sopra, che in pratica lo apri quando devi caricare la macchina. Sì, il tendino. Bravo, quello lì. Perché dietro non mi copre bene quando chiudo il portellone. E adesso non so se quello deve rimanere così o più dritto. Ah, così scorre dritto in quel binario che c'è. Tu lo devi tirare sino alla fine, lo abbassi verso giù e incastra. E no, quello me lo devi far vedere, perché qua, credimi, in mezzo al mio coso non ci ho capito un H di quel tendino lì. Però che sia difettoso, il mio lo tiri sino in fondo, poi abbassi in giù, e si ferma, si blocca. No, questo non riesco a capirlo, perché io quando chiudo il portellone, e tra lui e il portellone mi rimane un pochino di spazio, e si vede. No, non deve rimanere lo spazio, ma c'è una specie di mantovana che scende verso giù alla fine. Eh sì. E come mai la chiudere questo spazio? Non riesco a capire. Non lo so già, infatti non l'ho voluto forzare, perché arriva a un certo punto che fa, come lo tiro, fa uno scatto, va da una parte e poi dall'altra, e più indietro non va. Quando fa quello scatto lì è bloccato, alla fine. Fine cosa, poi se faccio vedere la macchina mia, copre tutto, non si vede nulla. Infatti, ma te rimane l'ultimo pezzo, quel pezzo di quella specie di mantovana che ha proprio l'incastro, dove quando abbassi il portellone va a incastrare il motorino del cristallo, quello rimane dritto, non si piega in giù. Ma rimane dritto, tutto il tendalino alla fine va verso il giù. Allora è come quello che ho io, però sinceramente non ci ho capito una. Sì, vabbè, già lo vediamo, ogni sabato ci vediamo. Lo vediamo, va la storia. Sì, poi per il resto è tutto a posto già. Ho piazzato sei giovani della bambina e cavolo, solo una posizione puoi mettere lì. Nella punta lo potevo mettere a sinistra, cioè a destra, bugia, dietro mia moglie. Ma per forza di cosa a centro? Sì, anche se faccio. Non ho provato in mille modi, però non sono riuscito a agganciarlo in diversa maniera. Però non è quello il problema. Poi per il resto l'ho provato. Cavolo, pare essere diesel, cammina, eh. Oh. Poi c'è anche le cinture per la bambina, le viste, le sportive. Come già? Come? Ha le cinture per la bambina, praticamente dall'interno non riesce a aprire. Ah, ce l'avevo anche nell'appunto quella. No, non ho avuto tempo già, perché stamattina è stata una mattina movimentata. Movimentata perché ho dovuto fare un sacco di commissioni. Figurati che l'ho ritirata, che erano lì 11. Ma eri libero stamattina? Stamattina ero libero perché dovevo andare a firmare, invece poi questa qui, questa deficiente, se no non me l'avrei presa la mattina libera. E ha avuto un contrattempo e siamo dovuti andare alle 4 a firmare. Ero incazzato perso stamattina. KK, ma dove danno un taglio? Quelle le agenzie, no, perché il notaio dice che non c'è più. Io non so manco come si fa a passare per 30 gradi. Ma guarda, noi siamo andati in un'agenzia lì in via Civitavecchia e c'era questa tipa che doveva essere diciamo abilitata, no, per fare quel coso lì, firmavi davanti a lei e via. E il gioco era fatto, sono entrato e uscito. Fra quanto te lo farò avere, mi prendo fra 15 giorni. Penso di sì, il tempo di sbrigare le pratiche, però intanto il fondo di via. Sì, quello è rinnovabile, mi pare. Ma io per la moto, quando la compro la seconda mano, 15 giorni me ne è malato. No, ma diciamo che il più è fatto, adesso il più è fatto, guarda, mamma mia cara, sempre casa, corri, corri, andando, tornando, adesso so che è fatta e via. Adesso domani, io un pochino di tempo in più, mi posso dedicare a vedermi quelle cose lì, perché da una parte almeno uno sportello lo voglio bloccare, perché nell'appunto, ti ripeto, avevo Veronica che era attaccata allo sportello di destra e quello l'avevo bloccato. Adesso qui domani vedo un pochino come funziona. C'è una vite da girare, basta, non c'è altro. C'è una vite, la giri e non te lo fa più dall'interno. Poi la giri dall'altra parte e ti apri di nuovo. K di positivo Gianni, sono tante di quelle cosette che sono da sistemare. Mi ha dato il libretto di uso e manutenzione, quello bisogna che ve lo lega un pochino, perché adesso, adesso sono in un altro pianeta e vado a accendere le luci e invece ho la leva delle frecce e le luci sono nelle cose, nel cruscotto. Ci sono quella rottellina che c'è a sinistra, poi quella lì, tirandola indietro, si accende la plafonera dentro. Sì, me l'ha fatto vedere, stamattina. Sì, quello sono riuscito a capirlo. Poi più sotto il pulsante della retronebbia e i faretti che ho davanti. Poi più sotto ancora c'è un cassettino sotto il volante sulla sinistra. Sì, davvero. Insomma, è un pochino da scoprire già, ti ripeto, dall'appunto a questa mi ci vuole qualche giorno, perché adesso la retromarcia, figurati, stasera stavo già retromarcia e la volevo mettere come nell'appunto, no? Invece qui è dall'altra parte. È facilissimo, basta tirare su. La rottina che c'è sotto le marce, la tiri su e la mandi verso sinistra e ce la retromarcia. Infatti, ma figurati a me abituato nell'altra, no, che facevo a destra e indietro per mettere la retromarcia, adesso qua, ma col tempo vedrai che già mi ci abituo. È la comodità. Cavolo, si sta decisamente meglio, cioè sei su un altro pianeta lì, poi anche come cruscotto, come tutto è molto più grande. Abbiamo provato l'aria condizionata stamattina, in 20 secondi ha congelato tutto. Sì, è così. No, già una bella macchina, quello è anche un grande 7.000 quadri. E poi per essere un diesel è bella silenziosa, credevo peggio, credevo quei diesel di una volta che sembravano trattori, invece no, e anche quando scendi dalla macchina, quando il cofano è chiuso, è bello come si sente che il diesel, però è molto vattato. non fa nada. Sono disonorizzate adesso le macchine, non ne fanno più rumori come c'è il 127 e poi un trattore. Ieri c'è la luce 127 e poi un trattore guidando, però non camminava nulla. E cosa ti volevo dire? Ma l'olio nuovo è Giuseppe, controllati quello lì, ti voglio dire quello, l'olio e i filtri. Se tipo quello della nafta è quello dell'olio, controlla. Se sono nuovi o se sono da cambiare, quelle cose di faglia, perché quelle cose lì sono l'anima del motore, già lo sa. Adesso guarda, entro domani, domattina a metà mattinata devo far cosa, ma qua mi sono ripromesso che domani dopo pranzo mi metto lì, me ne andrò da qualche parte, lontano da qui, da occhi indiscreti, perché qua sembra che nessuno guardi, però hai i miei occhi puntati addosso, no? E me ne vado su Piazza Lisegno, su lì a casa di mamma, e mi voglio applicare, vedere un po', controllare, aprirmi anche il cofano motore e vedere quelle cose lì. Magari te l'hanno anche cambiato, lui non te ne accorgi dal colore, ma c'è niente il giambalo, perché quello lì magari, sapendo che vado a non versare, l'hanno trascurato, capito? Beh, quelle sono cose che mi dovrò curare io. Però ho visto stamattina che era abbastanza chiaro, comunque un'altra occhiatina gliela voglio dare con calma domani. Se è chiaro allora gli va bene. Io le sto mettendo a 102.000, va benissimo. Anch'io nella punta, sempre a 102.000 sono andato. E così farò anche con questa. Ma sai perché? Quello della Opel, se ti serve fare un rabocco per dire di domenica, non c'hai l'olio. E invece fai un rifornitore agile per dire con pareggi. E l'olio è molto più facile trovare. E poi quando faccio il cambio dell'olio la mettono sul ponte, non pago né manodopera né nulla. Invece la Opel ti fai di pagare manodopera, tutto là. Io prima sai dove gli rifacevo i cambi all'appunto, di fronte allo stabilimento, al rifornitore dell'Agip, però adesso gli si è guastato il ponte e l'Agip non gliene vuole più riparare. Sì, basta andare alla Burgia, dove vado io vado da Burgia, mi tratta molto bene, gentilissimo col signore, faccio il gas, faccio tutto lì. Ah, ho capito, quello è il rifornitore che ha il gas, e bisogna che mi ci avvicini anch'io, che vi voglio fare una chiacchieratina. È molto in gamba, è una persona molto alla mano, e ti volevo dire, mentre prima mi seguivo da Unita, è molto scorbutico, maleducato, molte volte, no. Una volta ha fatto una figuraccia perché dovevo mettere la benzina alla moto, metto la benzina, poi mi guardo e mi accorgo che non c'avevo soldi liquidi. Ho preso, ho pagato con la carta, cazzo, mi ha fatto un cazzetto davanti a tutti, con la carta non so quanto paga, fa pagare a me, non ne vale la pena, mai fatto queste storie, io anche 5 euro con la carta pagata, c'è questo che mi ha fatto lo scarto, non mi dico più turrato. Fatto bene. Ma l'ho detto in banca, mi hanno detto, me lo dici che se lui ha richiesto quel tipo di servizio e lo mette a disposizione del cliente, non deve brontolare, mi ha detto il direttore della banca, perché io gli ho raccontato questo particolare, e mi ha detto, dille che se ha quel tipo di servizio lo deve mettere in atto, possono essere anche un euro. Tu puoi pagare tutto con la carta, qualsiasi cifra, lui non interessa. In effetti è così Gianni, in effetti è così, perché loro non perdono assolutamente niente, il servizio glielo sta dando la banca e lo può pagare quello che vuole col bancomat. E lì che lui che è sgorbutico. È sgorbutico lui, i figli sono in giamma, ma lui è... Non ha modo con la gente. Una volta questo signore sta parlando la bomba, ma quando così lontano, fa voce. Oh, si calmi, gli ho detto, ma cosa con chi si deve parlare? Si calmi. E allora la metto bene la pompa che così si rompe. Gliel'avevo detto, se continua a parlare sta venendo lì e te la sto ficcando in bocca la pompa, e dopo tutto quello che devo erogare te lo faccio bere. Basta fare il signore, non tornarci più. Per i punti, per tutto faccio la storia. Questo qui guarda, è una persona veramente a modo, sia i ragazzi sono in gamba, sia il proprietario. A me mi ha sempre trattato molto bene, e quando gli ho chiesto le cose me le ha spiegate, lui non era mai disponibile, se chiedevi qualche cosa di punti, roba di genere, adesso non c'ho tempo di fare queste cose. Figurati, non aveva bisogno di clienti quello allora. Oh, lo sai perché? Perché ne ha troppi, di passaggio qui ne ha troppi. E allora è così che si comporta uno che ha troppi soldi che rientrano, allora si può permettere anche di comportarsi così, se no le chiina. Sì, ma anche quelli di passaggio poi finiscono piano piano, vedi, i clienti già, non credere che gli duri una vita lui così tanto. Ah, sono molto più disponibili i figli di lui, è proprio, lui una volta che ho chiesto se mi cambia buon assenso, per non scendere giù a Polotto, se no sarei andato al Tuscolo, ma l'avrei cambiato. E lui pagava, cosa mi ha fatto pagare, i diritti, non so, di cosa che pagava lui per l'assegno, cosa che non mi ha mai chiesto nessuno. Mi ha fatto pagare, perché dice che a lui lo facevano pagare per l'assegno. Proprio miserabile allora. Ti sto dicendo che ti chiede un centesimo, per dire fa 15 euro e 0,1. Non vuole il centesimo, anche se non c'è, ma un centesimo qua, un centesimo là, pronto, ma non ce l'ho, gli do un euro per il cambio, un euro per un centesimo. E allora cosa vuoi? Se avesse trovato a me l'avrei detto, poi gli do un centesimo di coso, di benzina, muoviti. Se uno una volta ne ha chiamato i carabinieri, la dividi con i sireni. Se ha chiamato i carabinieri perché il macchinario si è messo a protestare, che il macchinario era truccato, che lui si era regolato in base alla benzina elettrica che ci stavano, con quel tanto di soldi lì, e lì ce ne stavano molto meno, e disegnavano la stessa cifra. E ha chiamato i carabinieri, gli ha detto che c'era una truffa, e quello che sono venuti a sirene, ha rifornito il coso come finta, questo qui era un carabiniere tra l'altro. Figurati, mamma mia, cara, te lo sarebbe stato a trovargli se c'era veramente qualche inghippo. Buonasera Antonio. Antonio, tutto qui. Stavo ascoltando il discorso. E non è finito, un'altra volta Giuseppe, vado all'automatico, mi brucia 10 euro, non mi dà né sconto né nulla, l'indomani ritorno, non me ne ha tornato. Come non te, per forza te lo deve ritornare? Non me ne ha tornato perché lui dice che vede tutto registrato, che dice che non c'erano questi 10 euro. Dice almeno che abbiano messo la cicomba, poi si prendono lo scontrino e vengono a ritirarli su. Sai cosa è successo una volta a me? Allora, io da quando la patente ho messo benzina all'automatico, sarà un 2 mesi fa. E benzina non me l'ha dato, no? Perché quello è un classico. Se no è troppo bello, no? Vai all'automatico, metti i soldini dentro e niente. Non mi ha dato né benzina né scontrino. Lì domani mattina ha voluto sapere l'ora e quanto avevo messo dentro l'automatico. Mi ha restituito i soldi col ragazzo. Anch'io gli ho detto allora tutto quanto, e lui dice che non li coincideva, non ce l'aveva registrato, questo che lui ha guardato in tabulati, e che non ha trovato questi 10 euro. Ma così, vabbè. e un punto in meno, ha cominciato così. Un'altra volta mi è successo, però con 50 euro, metto 50 euro, dovevamo andare fuori con mia moglie e i bambini, metto 50 euro di gasolio, di cose di benzina, vado a mettere i soldi. Tac, non mi dà né scontrino né cosa, aspetta, ripremendo, riprovando, eccetera, e niente. E per caso è passato il figlio, e gli ho detto che così e così, dice già non c'è problema, segnati l'orario, tutto quanto, che poi lunedì ci vediamo alle 7 di mattina. Allora che apriamo, che guardiamo il tabulato. Ok. Cosa è successo? Che la mattina, invece che andarci io alle 7, ci è andato prima un ragazzo con lo scontrino mio. Con lo scontrino mio per ritirarsi questi 50 euro che gli avevano bruciato. Pietro sapeva tutta la storia e ha detto, no, ferma tutto. Quei 50 euro non sono i suoi, ma sono di un'altra persona. E gli ha chiamato la finanza. Erano sgamato che questi ragazzi li mettevano le 5 per non scendere lo scontrino, poi si ripeccavano gli scontrini. Quando andavano via la rete si beccavano lo scontrino e si ritiravano i suoi. Cavolo, a tutti comunque. Sì, mi hanno fregato un po' di gente. E la finanza ha sequestrato questi 50 euro, li hanno portati in caserma, se li hanno fatti dare dal fornitore, li hanno portati in caserma e hanno chiamato a me e a mia moglie come testimone e cose. Hanno voluto sapere con che mezzo eravamo, a che ora l'abbiamo messa, a che ora abbiamo cercato almeno di mettere la benzina, tutto l'altro. Dopo 2 mesi ci hanno trovato i soldi. È un bel giretto comunque. Ma tutto perché? Non c'è controllo, è un casino. Invece in certi riflettori ci sono le telecamere, per dire dici quello che ci ha prodotto se c'è le telecamere. Una volta questa macchina si è sparata dal rifornitore, ha pigliato la macchina in pieno e se n'è scappato, però non ha durato più di tanto perché c'erano i filmati, questo qui gli ha chiesto il filmato, hanno controllato la targa, hanno sgamato la macchina, denunciato. Sì, quello sì, anch'io sono d'accordo nei rifornitori e ci sarebbero dovute essere le telecamere, soltanto che con questo cavolo di privacy e di cosa hanno rovinato mezzo mondo. Sì, privacy da voi, sono loro intendi che non la rispettano, tanto va. Ma è troppo la privacy, ci dovrebbe essere in una certa maniera, perché serverebbe anche a te di certe cose. Da una certa parte è buono, da una certa parte è no. Ma io non c'è nulla da tenere, capito? A me se mi controllano il telefono non me ne sgamano che spaccio droga o che vado a fare rapine o che faccio altre cose o che faccio cose illecite. Adesso la luce del sole, non ho problemi. A me mi posso pure controllare il telefono, non ho niente da tanto le cose private non vado a dire al telefono. Infatti con la scusa della privacy mi sa che la delinquenza è aumentata. Lo so, però molte volte tu parli al telefono, devi far sapere una cosa, non è giusto che la sappiamo gli altri, cioè ti gira le come si può dire, le palle che lo sappiano gli altri. Infatti ti dicono che le telecamere lì non ci vogliono, perché se vi dato la privacy ti controllano 24 ore su 24 le linee telefoniche, cioè lì non fa niente nessuno, ecco, c'è un orecchio geloso che ascolta, tu stai parlando tranquillamente e sente il gemasso che penso più filmato una persona in comune. Raga, posso presentare Giuseppe, potrebbe parlarsi in due. Però molte volte è meglio che ci sia da una parte è meglio che non ci sia dall'altra. Perché per esempio uno che sta a tempi in casa tua, quella è privacy, non ci può guardare. E quindi è meglio che ci sia la privacy, che quella persona che tu sai la denuncia venga arrestata. Tutto lì è anche. C'è il pro e il contro, dai. Tu sei proprio che ti guarderà in casa, abbassi e stampare che non ti vedo. Ma non è così, non è che tu cosa. Che diritto hai tu di guardare a casa mia? Non è un diritto. Io posso tenere anche la finestra aperta, non è che tu ti poni con un binocolo, ma fai te. No, non funziona così. Tanto di fronte a casa mia c'era sempre una che stava affacciata controllando chi si chiudeva il due. Se c'era caldo dovevamo tenere la porta a finestra aperta perché c'era caldo. Non potevamo fare a chi va via sempre i luci di 10 puntati. Mi sono dovuto fare la veranda per non vedermi più, capito? Ho fatto la veranda, piccoli sportelli scorrivo. Quando guardava li facevo il c***o. Non ci aveva fatto bisogno della veranda. Già, se mi era stato veloce puntate l'aveva fatto vedere un verandone. E la veranda l'avevo fatta anche per comodità mia, perché ce l'avevo fatto il cucinino. L'avevo fatto solo per lui. Avevo fatto il cucinino, ho messo un armadio in alluminio. Dove metto tutti l'imbarazzo, insomma l'ho usata come prolungamento della stanza. Ragazzi, beh certo, anche per comodità tua. Comunque, io dico che lì con la direzione non ci avrebbe più guardato. Cosa chiamano se piacciarecce? Non se piacciarecce, da grande muso romarito. Non lo per il suo qua. E quella la rosa rossa. Sì, la rosa piagosa. Di Giuseppe. Kappa. E mi sono assentato un attimino perché mi ha chiamato Veronica che voleva un bacetto. Se no non mi lascia la testa in pace per 2 secondi. Ciao Veronica, buonanotte. Adesso in camera. Papà mi dai questo bacio, papà mi dai via dai questo bacio. Adesso cosa credi? Che è tardi molto a richiamarmi. Sono così belli quando sono così affettuosi. Molto furbi. Ruffiani, no. Cappa. Adesso Marco, sai cosa ha fatto? Ha fatto lo sformato di zucchine Liliana, no? E l'ha lasciato pronto per cena. E lui ci ha passato l'amico del giaguaro, se ne ha mangiato 4 bizzi. E gli ha detto, chi è che si è mangiato tutto questo? Gli ha dato la colpa a me, capito? Io non ne ho manco toccato. Ho fatto le uova fritte, gli ha detto che me le avevo mangiati. Cappa, datemi due minutini, arrivo subito. Ma te immagini il gigantello? Detto che ero io, diglielo papà, diglielo che sei tu. No, non sono io, se vuoi stare zitto te l'avrei detto, ma non sono io. Sei tu che te l'hai mangiati, papà. No, serve tu che razzo, bizzino. E se non la smetti di mangiare? No. Che dai dietro, ti dai dei gusti io, e poi così in caca. Ma devo dare una regolata, altrimenti diventa un ciccio bomba. Lo so. Troppo, il vitro da mangiare ha preso da me. Non so. E proprio quando allunga già comincia a dimagrire un poco. Anch'io allungato. Vabbè che adesso mi regolo, mangio una cosa e boh, non è che... Prima parlo, ma era una dragonaggia, ma niente, mangiavo di tutto. Mozzarelle, insalate, continuavo la roba da mangiare. Insomma, ce n'era migliore. la pancetta alla grande. Primo ce l'aveva la pancia alla grande. Diciamo, lo sanno, ma più che la pancia, la faccia rotonda, un bel... E il dottor Cusurelli dice che è giurato, ne avevo fatto già 5 o 6 niente. Ma l'unica dieta, lo sai qual è? Ce li siamo fatti la bocca e di mangiare di manco di tutto. Preso la sorgia. Appagato. Ma... L'altro giorno prendessi mi sapevo di detto, papà non riesco a regolarmi, mangio troppo, io non ci riesco a regolarmi, c'ho sempre fame, poi solo quando sono nervoso mangio di più. Stare tranquillo e mangio di meno. E infatti sai cosa vuoi? Non devi la PlayStation, perché quello che lo fa è rosire la PlayStation. Se non riesci a fare qualche gioco pure lui si incarta, capito? Ma è un gioco. Sì, ma lui la prende seriamente. Quando non riesce a fare una cosa si incazza come Buddha, si mette a voce, papà non ci riesco, adesso basta la terza volta che lo faccio. Eppure poi alla fine ci riesce. Ma fascina quando riesce a battere. Adesso che è sempre arrabbiato di subitino. Che carattere. Non so, io non mi nervosisco, ma l'italiano è più furioso. Cosa ha pigliato a e poi lo sai cos'è, che i bambini a quell'età lì si stanno formando il carattere, non sono i cani dei pesci, però si vogliono far rispettare, si accorgono che non li devono mettere i piedi sopra gli altri, capito? Quindi tendono a farsi rispettare. Non male che ti riuso a venire, la scuola ha dato lo schiaffo a un bambino che lo stava prendendo in giro, sempre questa storia che mangia troppo, prendendo in giro e l'ha fatto un ciao, ha detto che dal giorno non l'ha più fatta. E la maestra gli ha messo la nota, che capito che va picchiato un bambino, però siamo andati e l'abbiamo detto, no, meno perché l'ha picchiato, io non giustifico il fatto che l'abbia picchiato, però anche voi dovete intervenire quando avvengono queste cose, queste discriminazioni. E vedete, se noi ci dovessimo mettere a controllare tutti i bambini, allora non vi lamentate se la già. Uno ha usato, poi gli ha fatto la doccia. Sì che Marco ha fatto, una volta ho visto a Iuri questo ragazzo che c'è la Urbia, questo ragazzino che ha 14 anni. E gli ha detto fammi vedere dove è tua sorella su Facebook, eh? E Marco gliel'ha fatto vedere. E gli ha scritto che era brutta, non so che cosa, Marco si è cazzato da tutto un cagnotto. Ah, è brutta, cioè, chiuso ma è brutto, non è capito fa niente. Vabbè. Poi se vedi a lui c'ha le orecchie a sventola, ha detto tutti gli altri bulti mai. Per lui non c'è niente da dire, l'ha fatta per fare il caffè a Marco. Io lo so, non so, l'ha fatto per far guidare a Marco. Giuseppe, ecco, prenditela, sono qua, la dieta come va? Mamma mia, cara casa, oh, oggi ho mangiato due pizzette, ma quando sto mangiando le pizzette sto dimagrendo, per quello che le sto prendendo ogni sera. Piero da un po' adesso, dai, se devo essere sincero, senza mangiarle, e oggi non ce l'ho fatta, ne avevo voglia, infatti ho detto, per me stasera pizza. Ja, ma tu cosa ci dobbiamo rovinare a pizze? No, rovinare no, una, due, non è che cavolo rovinare, Dio mio, tutte le cose che ho fatto guai. Sarebbe come aprire la finestra e buttare tutto quello che ho fatto fuori, tutti i sacrifici che ho fatto fuori dal balcone. E a San Zubaito scendete domani sera? Ma non lo so se vogliono scendere domani sera o domenica. E io ci sono domenica. Io vado domenica perché poi devo fare una cena nel ristorante, quindi vado lì e poi andiamo al ristorante a mangiare. K. No, noi domani sera sicuramente no, ma se domenica mattina una passeggiata ce la facciamo senz'altro. Vabbè, c'è una bella festa, mancare di un bel viso, poi lunedì ce la mangiata del pesce. Quando? Lui. Tutto il programma a casa. Vabbè, noi più che altro scendiamo, facciamo la passeggiatina così senza prenderci fretta, mica. Una bella passeggiata, tranquilli, proprio fuori dal mondo. Infatti, solo che a me la gente, quando ce n'è molta, è il mio assiso, che Giuseppe, mamma mia, ho soffro di claustrofobia, non posso vedere un po' di niente. Ma quello delle porte lo fa anche a me. Io ad esempio, la morte mia è se devo andare a Civitavecchia, a parte il fatto che come posto lo odio quello. Poi non riesco a capire la gente, sembra che stia per scoppiare la guerra da un momento all'altro, cioè sempre piena, sempre di corsa. Si tuffano nella roba e non sanno che c'è la fregatura. È normale, no? È normale, perché la gente, io li vedo a carrelli pieni, e la città a mercato è cara. Cara, se mangi i meditetti che pago 85 centesimi, diciamo 95 loro, non ti riguardo. Figurati. No, io non mi ci sono mai trovato, devo essere sincero. Ma diciamo che poi c'è anche la fregatura che tu vai per comprare cose necessarie, vedi anche con le superfluo, ti piacciono, ti devi comprare gli operi per la casa, 500 euro. Infatti, ma la maggior parte della gente ho visto che pagano tutti quanti con bancomat lì alla cassa. Ti sempre di là, Giuseppe, anche col bancomat sono su. Comunque Antonio, se ti piace quel coprivolante come me l'ho messo io, ci sono a Città Mercato, c'erano l'altro giorno e ce li avevano ancora. E allora bisogna dirlo, perché lui che guida. A Giuseppe non so se gli piacciono, però sono un po' comodi, ti senti proprio il manubrio bello grosso, bello morbido. Devono calzare a forza perché devono essere prendere tutto un corpo con il volante. E se no buonanotte, vai a sterzare, sterza lui e il volante rimane fermo. Prima c'è quelli con l'accidi, te le ricordi? Come già? Quelli che vanno l'accidi, te le ricordi che fai? Mamma mia, cara casa. Oxford. No Giuseppe, io ho un gusto. Non so se tu il mio l'hai visto, però è molto bello. Sì, l'ho visto. L'ho visto, ma ripeto, no, forse ci devo fare un pochino l'occhio. E la metti te la dico io. E lo sai che ti sento, brutto piedino che non sei altro. Mi sento solo grosso perché vi siete sovrammodulati con Antoine. Zitto, Giuseppe. Come mai sta modulando col portatile? Beh. Eia. Dimmi Anto. Vado, ma non mi rispondi. Ho fatto una domanda. Antonio, buonanotte. Pierpaolo, come mai è col portatile? Perché è seduto su una parte della casa molto... Sul luci. Sul cesso, vai. Ho capito, bastava dire che era in seduta stante e avrei capito al volo. Non mi riesco a dirlo. E così testimoniamo noi per qua. Poi ti posso anche prendere il mulino. Ne sedano allora. Eia, ma di quei sedani grandi colomi, i gianni. Un sedano da brodo. Ma lo sai che da noi ce ne sempre questo canale che ci unisce, no? Quel canale che fa vedere le antenne. Il canale di Suez. Vuoi vedere che se andiamo su un altro canale Pierpaolo arriva a bomba qui? Ma qui. Non mi senti neanche a lei? Adesso Santiago 2, Radio 2. Luca. Via. Tu lo senti a Pierpaolo? Vai Pierpa. Come senti, non cari? Cioè di 9 più 20 sei qua. Lo devo fare più volte perché non accendeva subito. perché l'ho messo nel primo banco di memoria, tutte le frequenze le ho sintonizzate, tutto a posto, analizzavo bene tutto quanto, lo specchio, e poi vado a cercare le frequenze, guardo il banco, era il numero uno e non mi dava più quelle frequenze. Hai toccato lo skip, però. Skip 125. No, quello lo sempre, lo skip. Non ci sei inserito lo skip, che lo skip serve per escludere le frequenze. Non so. Non penso di averlo toccato, io ho sintonizzato quello che volevo sintonizzare, come faccio sempre. Niente di che. Adesso lo sto facendo caricare, il risultato rosso. Giuseppe, quanto ti sei scaricato l'apparecchio? Ma io ce l'ho ancora carico, però non lo sto accendendo tutti i giorni. No, io l'ho acceso ieri di notte, lo stavo accendendo, quindi ce lo stavo usando. No, io la verità no, anche adesso è qui ed è spento. Gianni, che incontro deve fare quelle batterie lì un così, non danno avviso, ma non è colpo, Ah, così è? Quel vecchietto c'ha, la maggior parte di quelle batterie sono tutte così, ma non è colpo. No, perché sino a ieri la carica era piena, era al massimo. E di quel poi non mi accende più, mi ha fatto assurzare. Poi avvicina il volume che si dice pi, passo passo. Aspetta, controllo il mio, si accende, va? No, anche il mio, già, segna pieno, invece le volte fa un paio di pipì e se ne va. Eppure segna le tacchette, le segna tutte, ma non scende le tacchette come dovrebbe esserlo, ecco. Addirittura io ne ho avuto uno che segnava tutte le tacchette, durava quei 3 o 4 giorni, 3 giorni, dipende quanto te ore o te ho acceso al giorno, poi di botto faceva pip, più lato. Allora è un male perché non ti rendi conto di quando è scarico. Lo fanno in molti, anche questo ricco, ma a volte vedi che è carico, quando a un certo punto si mette a suonare, pi, e poi si spegne, eppure non trova l'avviso di scendere le tacchette. Ma questo scarica a morte per qua, perché la luce è rossa. Giuseppe lo sa, quando per dire è a metà carica, diventa mezzo rossa e mezzo gialla, quasi arancione. Questa invece proprio rossa. Ah, già, quelle sono come il telefonino, lo segna che c'hai un'attacca. Sono come le batterie, sono le stesse batterie del ion di litio con che c'hanno molti cellulari, cioè tutti i cellulari. Il cellulare, se tu hai visto, vabbè, ti segna l'attacca, ma è anche alle volte in alcuni solo che parti hai. Se tu vedi il telefonino quando ti avvisa che c'è ancora un'attacca, si spegne lo stesso. Che non ce l'ha fatta forza. E si spengono. Il giornale si spegne, cosa succede a quello lì? Quelli si spengono, non si spengono direttamente, non ti ha disminuito una cosa. Adesso vediamo, caricandolo cacca. Perché ieri mi sono fermato in quel posto che tu sei, mi fermo sempre. Ma l'ho preso piano piano che non c'era nessuno che mi disturbava, non ho fatto quello che dovevo fare, ho messo il secondo, primo banco, perché era 00, ho messo 01, poi ho sintonizzato piano piano tutte le stazioni, tutte memorizzate, ho messo lo scanner, scaricava va bene, tutto quanto, poi l'ho provato a spegnere, poi riaccendere e la vai via. Ma te lo so caricato. Giuseppe, vanno. Ah, no, io l'ho controllato, il mio ed è carico. Stava anche parlando per niente, va bene. Però, e puoi fare sempre una cosa, puoi lasciare a lui sempre attaccato, no? E quando non lo usi lo metti nel coso, tanto è la cosa, la batteria è come quelli tipo i cordless, non è che gli succede niente. Sì, lo so. E così ce l'hai sempre bello carico. E ma li può rovinare la memoria di carico. Poi ti sto dicendo che la roba, o Gianni, più bene la tratti e meno ti dura, dai retta Giuseppe, e mettilo a caricare quando non lo stai usando e vedrai che ti dura una vita la batteria. Chi la dice cosa e chi la dice cruda qua, avanti Antonio. Che cappa, e la batteria? Ogni tanto con la scaricata e rifatta ricaricare del tutto, ma se la carichi, se la usi per esempio un po' di giorno e poi la carichi, se te se scarico completamente non le fa niente. Vabbè, non lo si piedino. Non risposto. Chi? Giuseppe. No, no, io ci sono. Chi è che mi ha chiamato? Io, avanti. Ditemi tutto, sono tutto orecchie, tutto per voi. No, riprendi, stavo rilanciando il microfono, il microfono. Il microfono me lo prendo subito, me lo prendo subito, sì. E hai visto i telefoni? Prima c'era tanto, ti hanno fatto tanto baccano. Ah, la cosa, ce l'ho completamente scarica la batteria, questo e quell'altro, gli toglie l'effetto e così. Invece poi sei risultato tutta quanto una balla. Il telefono lo prendi, lo metti a caricare come quando vuoi e non c'è problema. C'è problema. Cappagà. Ci staccano da sole, ci staccano. Eia, io ho parlato con gente che bene o male ci sta ogni giorno con questa storia qui. E mi hanno detto, guarda, più ci stai attento più si rovinano le batterie di questa storia qui. Prendi, metti a caricare quando ne vuoi, ma ce lo butti dentro il caricabatterie e vedrai che ti dura una vita. Ma le batterie lì o no? Da quando ci sono queste batterie, i telefonini che non vanno fatti scaricare del tutto, tra l'altro vanno, lo puoi caricare, lo puoi tenere in carica, quando vuoi si scarica, si sveglia da solo, tutti i telefonini adesso si distaccano dalla carica da soli automaticamente, e già da quel di poi le batterie lì non vanno fatte scaricare come erano quelle a nickel, quelle a nickel si hanno fatte scaricare per la durata. Ma è già da quanti anni è che non ci sono più quelle, adesso ormai sono tutti a lì. E non c'è il problema di scaricarlo per ricaricarlo. Io il telefonino lo metto a caricare anche se lo riscarico, non c'è uno che ha la batteria 6 anni. E infatti, vedi? Perlomeno, per me è così. Io prima ci stavo molto attento, no? A queste cose, Abbiamo bruciato tante di quelle batterie, Pierpa. Io vedevo colleghi di lavoro con quel telefonino, ogni tanto metteva a casa, e dicevo, ma non la fate mai lo scaricava, ma cosa, ma lascia perdere? Così l'ho fatto, guarda, grazie a Dio ce l'ho anni questo telefono. Di scaricarsi, che c'erano le tasche, no, mi sono dimenticato di caricarlo, ma se no io, e poi non ti ripeto, non c'è più questa necessità, ma con le batterie lì non si fa scaricare, no? E dentro ci sono anche i cordless di casa con le batterie lì, e non necessita, può essere appoggiato sulla base ogni volta che lo usi, poi può essere appoggiato sulla base, tanto prende quella ricarica e poi si stoppa da solo. Cappa di positivo, Pierpa. Fate un esperimento. Allora, mettete a caricare il telefonino e per un'ora e mezzo per formare il ricorso, il caricabatterie è caldo, se lo lasci fino all'indomani e vai a toccarlo, è freddo perché si stacca da solo. Sì, sì, quello l'ho notato anch'io. Quello l'ho notato anch'io, Antù. È così, quindi si staccano da soli. Quindi sovraccarica, non ne può mai prendere la batteria. Hai sentito Gianni? Se non ti rispetto, poi l'abbiamo comprato noi due per i primi, poi ce l'ha preso Gianni, ce l'ha preso anche un'altra persona. E ce l'avevamo tutte e quattro uguali, ce l'avevamo. Non fallisce mai, non fallisce un colpo, ci credo, ma è così, è così. Poi guarda, io te lo dico con molta tranquillità, sono i migliori. Certo. E sono i migliori quelli. Sì, sì, ma è vero. Per stare a comprare altri telefonini conviene comprare un Nokia. Non sbagli, hanno... a me non ci hanno mai tradito. Beh certo, certo, ma poi li conosco molto bene quelli. Addirittura ne ho ancora, come ha detto tuo padre poco fa, uno vecchio qui che aveva l'ella, ma grazie che sono sì, non si distrugge mai. Lo semplice. Via. Sempre buono. Comprare altra roba che è un pochettino così, come se vediamo di chi c'è. Certo. Questo io me lo devo cambiare, ce l'ho già un po' di tempo. Ma se funziona bene, guarda, io sono uno di quelli che... poi mi ci affeziono, perché poi va a finire, secondo cosa voglio apprendere non ti fa la stessa riuscita di quello. Tu che marca hai di telefono? E non prende bene. Sì, ma voglio prendere un altro modello, è già, comincia già a essere un po' vecchio. Ma comunque no, non mi ha mai dato un'occhia. Adesso valuto un po', appena io metto qualche soldo in tasca, me lo compro un altro. Positivo, Antonio. L'importante è sempre migliorare. Sempre migliorare. Ma poi migliorare con un altro Nokia. No, non più altro. Un Nokia o niente. Cavagallo. Gianni, balza fuori da quando si è messo il pigiama a casa e ci ha fregato. Bubu. Sono accorto che il più che non ha dato noi è quello, allora voglio ripigliare quello. Beh certo, io sono sempre del parere che una persona quando si trova bene con una cosa e niente, nel caso si guasti con l'andare del tempo, io avrei preso di nuovo quella marca lì. Non credo che ti ho visto io. Adesso che tanto non mi rompo le scatole. E poi le fanno anche bene le batterie, come cavolo si tocca. Ma via, avevamo comprato un Philips una volta, pacare dai. No, ce l'ho avuto anch'io il Philips, mamma mia cara, ogni rottame. Cavagala. Anche il Motorola non è male, comunque, non è malaccio. Ma non è mai quello che vuoi. Nilsson Ericsson, alcuni modelli si possono salvare, ma alcuni... Io ne ho avuto uno, il Siemens mi pare che era. Cavolo, lo pigliava manco, se mi mettevo a fianco al tuo di telefonino magari mi sentivi, ma proprio attaccatemi. Non si viene nulla. Poi lascia perdere. Io ho uno la segretaria nostra, sempre in assistenza, non si viene nulla. E infatti, ha giocato prima a casa, te l'ha giocato e via. Sì. Ma più ne voglio essere da pigliare un'occhia, perché è compreso che era quella la strada buona. E cappa. Pietà. Dica. Allora ci cambiamo il telefono? Io. Via. Come va bene ancora questo? io. Lo stesso faccio io, anche il mio non ha un grafio. E va bene. Anche Motorola comunque non sono male. No, Motorola mi hanno dato fastidi parecchio. Poi io ho entrato bene, dicevo, c'è Rebbia, il Govoto, faccio vedere il Govoto, tutti e tre, io ne ho tre. Cioè, poi sono tutti e tre Nokia, Sì, qua io lo so dei Nokia, ti ripeto, da Lella, perché anche a lei il Nokia è sempre piaciuto. Però ho visto che come riuscita, cavolo, sono dei cosi, sono delle bombe. Questo uno già ha 6 anni, è ancora bello che nuovo. Quello che ha rotondo sotto, quello che è largo è rotondeggiante sotto. Ce l'ho 6 anni, non sgarra un colpo. Figurati, niente stai dicendo. Pure quello lì lo uso, è più chiuso perché lo uso per lavoro, però te lo faccio vedere, è nuovo. Ogni giorno quello io lo uso, mi chiamano centinaia di volte al giorno, è il più che uso, lo uso più del mio personale. Cavolo, figurati. Va bene. È UMTS lo stesso, quindi io sono già preparato, ce l'ho per 2 anni, è nuovo, mi metto a cambiare il telefono adesso, buia, lascia perdere. Rulla che è una meraviglia ancora. Sì, io credo ancora deve rullare quello lì. Io posso usare anche i vecchi che ho, perché tanto sono i vecchi per morire che hanno anni, ma sono nuovi. E quello sono nuovi vanno bene. Ah, questo che ho l'ho preso è Nokia 3011, che non hai visto quello nero? Ma benissimo, nuovo. C'ho la scheda dentro da 2 giga, la voglia. Aspettatelo lì un signor telefono. Io ci ho messo, quando l'ho preso ci ho messo da 1 giga, poi l'ho cambiato, ho messo da 2 giga. Ci stanno quante canzoni voi e quante fotografie voi, a voglia. Ci faccio dei filmati lunghissimi anche. Infatti, no, quello è molto bello, veramente bello come telefono, poi è molto aiuto, è molto elegante, cioè quello che mi hai fatto vedere l'altro giorno in macchina, quando ne avevi 3. Sì, quello che è l'ultimo che ho preso, quello è super bello, quello, ma cioè, perlomeno a me piace, non è tanto grosso, è abbastanza sottile, non pesa, va bene. Che è un signor telefono quello, cavolo, ci mancherebbe. E può essere che anche a qualcuno non gli piaccia, ma a me già le piace, deve durare ancora, a voglia. Almeno un altro paio d'anni, che faccio fare sempre, almeno 4-5 anni, poi non è che lo metto da parte, magari metto da parte il più vecchio che ho, ma di solito me ne dispiace, quindi insomma li uso con le loro. Poi il discorso per poi anche che il telefono deve fare il telefono, perché adesso ne hanno fatto certi casi che non sono telefoni, questi qua sono computer portatili. Ma sai, non so se io a te ti sono abbassato, ma tu adesso mi stai arrivando con Santiago di 2. Ci posso credere, ma non so manco io cosa attribuire questa storia qui, Pierpaolo. Guarda, tanto non c'è altro